Capitolo 20. Rovigo, 30 gennaio 1547. Proprio ieri, all'uscita da una chiesa, ho incontrato un bambino di 5 anni e gli ho domandato chi fosse Gesù. Sapete che cosa mi ha risposto? Una statua. Frate Vittorio alza le spalle e lascia intravedere un sorriso sotto la barba folta. Se vi può consolare, c'è un uomo del nostro paese, un falegname, che avrà una quarantina d'anni, che ogni giorno si presenta in chiesa per 3 volte, recita un pater di fronte al crocifisso e poi torna a lavorare. Gli ho chiesto come mai fosse diventato così assiduo nelle visite al Signore e mi ha risposto che sono stato io a dirgli che con 3 preghiere a Gesù ogni giorno avrebbe guarito il mal di schiena. Questo è il posto più vicino che conosco dove trovare Gesù, ha aggiunto. Non vi dico la faccia che aveva quando ho cercato di spiegargli che Gesù può essere dappertutto, nelle donne, nei bambini, nell'aria e nel ruscello, nell'erba e negli alberi. Batto le mani e le riallargo con rassegnazione. Il gesto attira l'attenzione di altri 2 frati. Si avvicinano per capire di che si tratta. Il vostro esempio non mi consola affatto, fratello. Se un uomo di 40 anni crede che Gesù sia una statua, esattamente come fa un bimbo di 5, significa che 35 anni di norme e precetti, dogmi e castighi non fanno crescere di una virgola la fede del cristiano. Com'è possibile, vi chiedo, che un bambino venga costretto a ricevere i sacramenti, a inginocchiarsi davanti a quella che per la sua mente semplice non può essere altro che una statua, ad ascoltare il Vangelo quando per lui esso non è che una favola in nulla preferibile a quelle che gli vengono raccontate davanti al fuoco? Vi sembra sensato tutto questo? Io dico che questo non è soltanto assurdo, fratelli, ma anche pericoloso. Quale credente cresceremo, infatti? Quale sincera devozione a Cristo possiamo sperare di veder maturare in quel piccolo essere se lo abitueremo, fin dalla più tenera età, ad accettare passivamente cose che non comprende, a inginocchiarsi davanti alle statue? Io dico, fratelli miei, che Cristo non può essere che una scelta consapevole e motivata e non una favola inculcata agli ingenui. Ma oggi ci viene chiesto proprio questo. Ci viene chiesto di credere senza comprendere, di ubbidire in silenzio, finanche di temere, vivendo nel terrore d'essere puniti, processati, incarcerati. Può nascere vera fede tra sentimenti simili? No di certo, fratelli. I 3 francescani si scambiano un'occhiata incerta. Faticano a rompere il silenzio che segue le ultime parole. Uno di loro fa cenno ad altri 2 di raggiungerlo. Sono Tiziano, pellegrino tedesco diretto a San Pietro. I francescani di questo piccolo convento di campagna mi hanno accolto con gentilezza e ospitato con grande cortesia. Parlottano sommessamente tra loro. Il riassunto per gli ultimi arrivati. Frate Vittorio si irrigidisce in una posa plastica, poi non trattiene la risata. Non mettetela così, fratello Tiziano. Pensate questo piuttosto. Vicino a un villaggio della nostra diocesi c'è un pioppo secolare, forse l'albero più imponente che mi sia mai capitato di vedere. Ebbene, i contadini sostengono che durante il plenilunio di ottobre chi si mette sotto l'albero e riceve tra le mani una sua foglia portata dal vento, mangiandola acquista forza e longevità. Uno sguardo accigliato. Non capisco dove vogliate arrivare. Un pellegrino come voi, riprende incrociando le mani dietro la schiena, 20 anni fa venne a ristorarsi in questo convento. Gli raccontammo la storia del pioppo, gli spiegammo dove si trovava. Era convinto che prodigi naturali si verifichino nei luoghi dove la Madonna desidera mostrarsi ai suoi figli. Andò là e la Madonna gli apparve, dicendo: «Il corpo e il sangue di mio figlio danno la vita eterna». Da allora, nel plenilunio di ottobre, festeggiamo la Madonna del Pioppo e i contadini vengono per mangiare l'Eucaristia e le foglie dell'albero che cadono sull'altare vengono benedette e distribuite a tutti i fedeli. Mi siedo su una delle panche di pietra che costeggiano il muro. I frati si sono moltiplicati, almeno una decina. I più anziani siedono accanto a me, gli altri si accovacciano per terra. «Allora», chiedo rivolto a tutto il gruppo, «cosa ha voluto dire il vostro confratello con la storia del pioppo?» Risponde un frate giovane, tutto naso e zigomi ossuti, «che per portare il Cristo alla gente delle campagne non si può tanto sottilizzare. Alcuni crederanno che egli è una statua, altri mangeranno il suo corpo come da giovani mangiavano le foglie di un albero». Ora che li ho messi tutti a sedere, mi alzo in piedi di scatto. «Il corpo e il sangue di mio figlio danno la vita eterna. La Madonna del Pioppo ha annunciato al pellegrino il cuore della fede cristiana. La gente delle campagne non capisce il Cristo perché voi lo rendete troppo complesso. Ecco perché hanno bisogno di una statua o di un'antica leggenda per accostarsi a Lui. Dio si è fatto uomo ed è morto in croce perché potessimo anche noi risorgere alla vita eterna. Questa è la fede che salva, non serve altro. Questa è la fede che nessun neonato può professare. Per questo vi dico che battezzare un neonato non ha più valore che lavare un cane. L'unico battesimo è quello della fede nel beneficio di Cristo. Balza in piedi e quasi inciampa nella lunga veste, folte sopracciglia nere e barba fin sotto gli occhi. Mi abbraccia di slancio, mi bacia, poi mi fissa con lo sguardo incandescente. Adalberto Rizzi ti ringrazia, fratello tedesco. Sono 20 anni che vivo qui dentro, da quando la Madonna mi apparve tra le foglie del pioppo e con molti segni mi testimoniò la sua presenza. I frati più giovani lo guardano sbalorditi. Sì, sì, chiedetelo a frate Michele qui, se non dico il vero. Dopo l'apparizione, cominciai a predicare le stesse cose che tu, fratello Tiziano, hai detto quest'oggi. Parola per parola, ti assicuro. Ma mi dissero che ero sconvolto, che avevo bisogno di riposo e di meditazione, che la Madonna non mi aveva affatto chiesto di dire le cose che andavo dicendo. Mi convinsero. Ma ora sento che tu mi hai ridato quello che mi era stato sottratto e con la lingua di fuoco proclamerò al mondo la fede nel nuovo battesimo e nel beneficio di Cristo. Si butta in ginocchio. Quasi le gambe non lo sorreggano più. Battezzami, fratello Tiziano, perché la sciacquata che mi diedero da fanciullo non conta più nulla per me. Battezzami anche con l'acqua sporca di quella pozza. La mia fede basterà a purificarla. Mi guardo intorno, tutti immobili, a bocca aperta, eccetto frate Vittorio, che scuote la testa, sconsolato. Ho già fatto abbastanza per il luogo in cui mi trovo. Meglio non rischiare con gesti troppo plateali. Tu stesso puoi battezzarti, fratello Adalberto. Sei tu il testimone della tua conversione. Mi guarda per un attimo con il volto estasiato. Poi si butta a capofitto con la faccia nell'acqua fangosa e comincia a rotolarcisi dentro, gridando a squarciagola. Tutto sommato, piuttosto plateale.